L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio, ben ritrovati per questa puntata che va in onda nel bel mezzo della terza edizione di Agri Travel and Slow Travel Expo, salone internazionale dedicato alla promozione del turismo rurale e slow, quindi lento. È in corso presso la Fiera di Bergamo fino a domani 19 febbraio. Questo tra l'altro è l'anno internazionale del turismo sostenibile decretato dall'ONU, quindi abbiamo deciso di approfondire un po' questa questione. E con noi c'è Stefania Pendezza, che è Project Manager di Agri Travel e Slow Travel Expo. Benvenuta. Buongiorno, grazie. Allora, siamo proprio nel mezzo di questa manifestazione che chi vuole può visitare nel corso di questo fine settimana. Cominciamo con lo spiegare però agli ascoltatori di che si tratta, cioè che cos'è il turismo rurale, che cosa lo differenzia da tutti gli altri tipi di turismo che in Italia sono davvero tantissimi, perché in Italia si viene per tantissimi motivi diversi. Il turismo rurale è un turismo che premia quelle destinazioni dove l'attenzione per l'ambiente, la cultura dei luoghi, la natura degli stessi e le eccellenze enogastronomiche e artigianali fanno di questi luoghi dei luoghi unici e veramente emozionanti da vivere. Quindi è per turisti in particolare che già conoscono l'Italia, o può essere una, diciamo, un'origine per, no, mi fermo nelle campagne per poi conoscere tutti gli altri luoghi? Come la vedete voi, come la immaginate più questo tipo di turismo? Sì, ce lo immaginiamo proprio così, che attraverso appunto la scoperta di questi luoghi si possono anche scoprire le eccellenze culturali straordinarie del nostro paese, ma non solo, quindi anche attraverso il nostro paese che si distingue per l'enogastronomia sicuramente, per l'attenzione che ha anche alla sostenibilità, quindi quelle eccellenze che sono in stretto contatto con la qualità della vita, la salvaguardia dell'ambiente. Non a caso il nostro salone, oltre a premiare queste destinazioni rurali, dove in prima linea ci sono sì le aziende agricole multifunzionali, ma anche tutti quei luoghi, quei borghi, piuttosto che anche quelle realtà di montagna, di pianura, di collina, di mare, che effettivamente fanno parlare di sé attraverso gli elementi della natura e dell'ambiente. E accanto a questa concezione c'è anche quella slow, quindi un turismo lento, del viaggio vissuto a piedi, in bicicletta, con i cavalli, quindi una forma di viandanza dove l'obiettivo non è tanto la meta, ma un percorso interiore durante il viaggio. E se durante tutto questo si può assaporare anche il gusto di dei prodotti tipici del nostro territorio, ma non solo a livello nazionale ma anche internazionale, diventa ancora di più un viaggio emozionante. Quindi in questo salone l'idea è di far conoscere questa realtà che forse cominciano finalmente a godere anche gli italiani stessi, cioè non sono solo gli stranieri che forse hanno sempre avuto un po' questo gusto della scoperta del territorio italiano, ma forse sono anche gli italiani che cominciano a cercare questo tipo di esperienza più emozionale. Sì, assolutamente. Poi i dati, tra l'altro, forniti anche a livello europeo e nazionale su queste nuove tendenze di viaggio vanno proprio in questa direzione. Ma lo vediamo anche al nostro salone, l'interesse proprio di molte realtà nazionali e del pubblico che già ha aderito alla nostra manifestazione, e anche agli incontri B2B che la nostra fiera riesce a organizzare. Infatti si configura proprio come una piattaforma di confronto dove enti, istituzioni pubbliche e private dialogano in un contesto stimolante e ricco di spunti, proprio di confronto tra diverse realtà, da piccole e medie imprese, cooperative, associazioni di categoria, aziende agricole multifunzionali, da aziende d'artigianato, tutti attenti a questa grande filiera del viaggio che crea sempre più interessi e opportunità anche alle economie locali. Sì, direi che questo poi dopo è un aspetto fondamentale, no? Perché le economie locali, e specialmente magari quelle di certe aree montane o più distanti dai percorsi tradizionali, possono trovare in questo tipo di sviluppo, questo tipo di richiamo, diciamo, fatto dal turismo, una possibilità di tornare a crescere su altri fronti. Sì. Assolutamente, ne è un caso proprio l'azienda agricola multifunzionale, dove grazie proprio alla multifunzionalità che da anni insomma aiuta e sicuramente fornisce delle opportunità al territorio, ma alla cittadinanza tutta, favorisce le aziende agricole non solo nella produzione di derrate alimentari, ma di servizi proprio a favore della cittadinanza e del pubblico. Quindi pensiamo solo alle fattorie didattiche, alle fattorie sociali, alla vendita diretta di prodotti di eccellenza, alla alla ristorazione, all'alloggio, quindi tante realtà, che tante opportunità che sicuramente sono una grande eccellenza del nostro territorio e che in questa occasione ha la possibilità di confrontarsi con altre realtà nazionali e internazionali, soprattutto crescere e confrontarsi per raggiungere degli obiettivi concreti. In realtà anche internazionali? Chi viene? Al salone sono presenti, proprio su questo tema dello sviluppo rurale, del turismo rurale, sono presenti delle importanti associazioni a livello nazionale che nei giorni passati hanno anche partecipato a una conferenza internazionale, e tra queste abbiamo Eurogit, che è un'associazione a livello europeo che conta 35 associazioni in 27 paesi europei, così pure come MER, un altro movimento europeo proprio per la ruralità, ma anche non solo quindi rappresentanze politiche, istituzionali o di associazioni, ma anche delle realtà concrete di aziende agricole multifunzionali, così pure come di realtà del turismo, della promozione del turismo rurale da Romania, Montenegro, Lituania, Francia, Slovenia, questo solo per quanto riguarda l'Europa, ma abbiamo anche una presenza internazionale, quindi oltre l'Europa con la Bolivia, la Costa d'Avorio, il Messico, la Thailandia, la Cina, il Marocco, e ognuno di questi paesi presenta nei tre giorni quelle sue eccellenze in termini enogastronomici, rurali, ambientali, cercando anche di costruire delle reti, delle sinergie con i nostri attori locali e nazionali. Ne sono un caso gli eventi dove prevedono proprio l'esibizione di artisti di una cultura e dell'altra, piuttosto che le grandi esibizioni di show cooking dove c'è l'abbraccio del raviolo cinese con il casoncello bergamasco, così pure come tante altre realtà che fanno parlare dei luoghi attraverso questi temi, quindi l'agricoltura e quindi il cibo, la cultura e il turismo possono effettivamente legare. E anche parlando di legare, abbiamo anche degli eventi musicali dove il titolo è proprio La musica che unisce. Allora, vabbè, questo ovviamente nel salone c'è tutto, no? Sì. Però stavo pensando al particolare di chi, italiano diciamo, ma può essere ovunque nel mondo, si trova a doversi confrontare con queste aziende multifunzionali. Non è facile, cioè, voglio dire, passare dall'essere contadino o agricoltore o allevatore o solo ristoratore a dover aggiungere tutta questa serie di altri servizi che sì, ti aiutano da una parte, ma insomma ti creeranno una serie di grattacapi. Immagino sia anche da imparare a fare questo mestiere, non è? Assolutamente, tra l'altro hai detto bene, perché per quanto riguarda questi servizi della multifunzionalità che riguardano l'accoglienza nello specifico, per esempio anche di scolaresche piuttosto che di gruppi di famiglie attraverso appunto la didattica, in ogni regione dunque vige proprio una legge di riferimento proprio che contempla anche una formazione specifica per questi agricoltori, così pure anche per quanto riguarda l'aspetto dell'agricoltura sociale e anche naturalmente per l'ospitalità, per la ristorazione, per l'alloggio, quindi la formazione dell'accoglienza è importantissima, e noi abbiamo infatti dei workshop, dei seminari proprio rivolti ad agricoltori ma anche ad altri agenti della filiera del viaggio per scoprire come promuoversi al meglio, come gestire diverse situazioni legate appunto all'accoglienza, oppure anche come interagire efficacemente con il cliente, così pure come promuovere l'attività e il proprio business grazie a una corretta anche presenza in rete, quindi tutti aspetti che vengono approfonditi nei nostri appunto workshop, che sono comunque in programma anche sul nostro sito. Quindi sicuramente massima attenzione a quella che è la formazione, a quella che è la valorizzazione di esperienze nazionali e internazionali, di buone pratiche che possono essere quindi messe a confronto per una buona crescita, e soprattutto visto che teniamo molto anche nell'ottica dello sviluppo sostenibile alle nuove generazioni, un'attenzione ai bambini ai quali sarà riservata un grande spazio in termini di attività, proprio grazie anche agli agricoltori e alla multifunzionalità dell'agricoltura attraverso il servizio delle fattorie didattiche. Quindi c'è anche un aspetto didattico, diciamo, ecco, della situazione, no? Perché non è solo intrattenimento, ma è anche didattico quello che viene offerto ai bambini. Dunque, stavo leggendo alcuni dati che sono nella vostra scheda che sono, diciamo, tra virgolette confortanti, no? La quantità di italiani che chiedono attenzione all'ambiente, alla sostenibilità e che la chiedono nelle strutture in cui vanno. Noi ci auguriamo che siano tutti onesti nel rispondere a questi questionari, sì, perché gli italiani spesso un po' mentono sapendo qual è, no, dove dovrebbero andare, poi tendono a dire sì, io lo cerco, ma noi speriamo che sia tutto vero. Però sicuramente è vero quello che rispondono rispetto alla domanda cosa cerchi, che tipo di località turistica cerchi, dicono il 60% natura e paesaggio, questo non c'è, sì, nessun bisogno di mentire, potrebbero dire città, potrebbero dire qualunque cosa. Questo direi è un dato insomma, confortante per chi lavora nel turismo rurale, è un dato indicativo anche forse del malessere che c'è nelle città. Assolutamente, e questo dato rispecchia anche l'incremento, per esempio, di quelle aziende agricole che diventano, insomma, agriturismi, quindi anche la crescita degli agriturismi stessi, così pure come l'attenzione di altre strutture ricettive proprio in contesti, in luoghi naturali e che cominciano a attrezzarsi per l'ospitalità e a creare delle reti, delle sinergie. Questo è ci sono dei bellissimi casi a livello nazionale, che tra l'altro verranno anche esposte in fiera, dove si racconta proprio questo, a testimonianza dell'interesse verso questo tipo di turismo. Ma anche l'Organizzazione Mondiale del Turismo, che quest'anno celebra nel 2017 proprio l'anno internazionale del turismo sostenibile, dà dati di questo genere, quindi dove l'attenzione, che sottolineano che l'attenzione per il visitatore e il pubblico è proprio in questa direzione. Quindi un'attenzione a quello che è temi della sostenibilità, della biodiversità, quindi di un contatto con la natura unico e coinvolgente. L'ultima questione, veramente, siccome ogni rosa ha le sue spine, tutto questo lavoro, queste reti, queste trovano difficoltà in qualche punto o le cose, diciamo così, procedono bene da sé? Fare rete non è sempre facile, andare in un'unica direzione, però ci sono, come dicevo, delle buone realtà, dei buoni casi che testimoniano invece come l'unione di realtà, di reti tra enti pubblici e privati che stanno andando in questa direzione ci sono e sono una conferma che si può fare. Allora, io ringrazio Stefania Pendezza, Project Manager di Agri Travel e Slow Travel Expo, in corso in questi giorni alla Fiera di Bergamo. Buon lavoro e a risentirci. Allora, magari facciamo le conclusioni più avanti. Benissimo, grazie, buona giornata. A questo punto facciamo una pausa, tra poco andiamo a parlare non più con gli organizzatori ma con i partecipanti. Io vorrei un'Europa in cui le persone non hanno paura di perdere la propria nazionalità o le ricchezze del loro paese. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21:30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. L'altro pianeta. Ancora un buon pomeriggio da Laura Bettini, stiamo parlando della terza edizione di Agri Travel e Slow Travel Expo, Salone Internazionale del Turismo Rurale e Slow, in corso presso la Fiera di Bergamo fino a domani, 19 febbraio. Il turismo mondiale rappresenta, leggo qua nei dati, il 10% del PIL globale. Impiega il doppio delle donne di ogni altro settore e dovrà saper gestire in modo sostenibile una previsione di 1,8 miliardi di turisti internazionali nel 2030. Allora, parliamo un po' dell'approccio che possiamo avere a questo turismo per renderlo anche un po' più sostenibile. Mauro Lattuada di Più Turismo, benvenuto Mauro. Grazie, buongiorno a tutti, ciao. Cominciamo col dire cosa fa Più Turismo. Più Turismo è un portale che permette alle aziende di iscriversi gratuitamente e pubblicare una propria lista di presenza, permette alle aziende di pubblicare notizie e informazioni al territorio e sensibilizza turisti, viaggiatori e soprattutto le aziende turistiche ad adeguarsi alle migliori pratiche green e a cercare di impattare il meno possibile sull'ambiente, mettendo in atto dei comportamenti giusti e sensati nella gestione della struttura turistica. E quindi è per questo che siete alla Fiera del Turismo Responsabile. Cosa portate delle vostre esperienze, che sono un po' più ampie rispetto al turismo rurale, in questa occasione? Due cose: innanzitutto un format formativo gratuito, quindi avremo 5 ore di formazione tra il venerdì e il sabato, che utilizzeremo per insegnare queste cose alle strutture, insegnare soprattutto appunto come adeguarsi al protocollo di turismo responsabile del WWF. Questo protocollo è disponibile dopo l'iscrizione sul nostro sito, che è gratuita, ed è un test in 50 domande che permette alle aziende turistiche di analizzare le proprie scelte, capire se stanno operando bene dal punto di vista dell'infrastruttura, della gestione della ristorazione e dell'hospitality, e se superano il punteggio minimo richiesto da questo protocollo ottengono immediatamente maggiore visibilità e pubblicità all'interno del nostro circuito come azienda attenta all'ambiente. Quelle che non lo superano invece possono o seguire le nostre guide e quindi mettere in atto quei processi che li portino a essere in grado di superarlo, oppure chiedono la nostra consulenza e le aiutiamo noi facendogli consulenza. Ovviamente quindi è un lavoro che serve sia al pubblico, no, sia alle aziende, mi sembra, rivolto su tutti e due i fronti. Sensibilizza le aziende innanzitutto dalla piattaforma, soprattutto sensibilizza gli utenti, perché le aziende queste esperienze le possono sia raccontare all'interno del sito, sia possono condividere informazioni territoriali, informazioni sulle loro offerte, tutta quell'attività di promozione territoriale che al posto di farsela sul loro blog o sul loro sito, magari poco letto, riescono a fare su un sito che ha parecchi visitatori, quindi parecchi lettori, che sono tutti utenti privati, che hanno solo servizi gratuiti e che vengono educati anche loro alle buone pratiche tramite il sito. Bene, bravi per questo tentativo educativo che è molto importante. E nella vostra esperienza, diciamo, vedete una... Diciamo che, no, ne abbiamo parlato già nel corso di questa puntata con gli altri ospiti, appunto anche loro dalla Fiera del Turismo Rurale. Tante persone rispondono alle domande, ai sondaggi e così via, diciamo, dicendo quello che ci si aspetta che dicano, quindi che vogliono strutture sostenibili, che vogliono strutture attente all'ambiente, eccetera, eccetera. Sul vostro sito però poi dopo devono essere sinceri fino in fondo, no? Perché se cercano una certa cosa, arrivano in un certo punto. Anche. Esatto. Sono sinceri quando rispondono questo, cioè poi vanno effettivamente in queste aziende selezionate per le loro caratteristiche di sostenibilità, attenzione all'ambiente e così via? Parecchio, l'utente è sempre più attento e questo fa sì che le strutture siano sempre più attente. Le strutture che mettono in atto i processi migliori hanno immediatamente un rientro economico da questo. Più è alta l'attenzione al risparmio energetico, alla gestione dei costi e all'esperienza, alla qualità dell'esperienza dell'utente, più avrete utenti contenti, avranno utenti felici. Questo trend lo vediamo riscontrato continuativamente. Le aziende più green sono quelle più ricche dal punto di vista della clientela che torna e quindi affiatata e che si appassiona, e più ricchi di recensioni positive di persone che evidenziano questa differenza rispetto alle altre. È proprio una politica diversa di gestione della struttura a 360 gradi, che non è soltanto una facciata green, greenwashing come si chiama, ma è vera attenzione ad avere case che si scaldano utilizzando la terra, sistemi che permettono di minimizzare i consumi. Tutto questo ha anche una ripercussione economica molto pratica. Messe insieme le due cose fanno sì che queste strutture abbiano una marcia in più delle altre, tant'è vero che più di 300 strutture hanno fatto il questionario, 130 quasi lo hanno superato, quindi hanno dimostrato una notevole attenzione a questi standard, continuano giornalmente a farlo tante altre, e tutte quelle che non riescono a superare questo standard cercano di adeguarsi. Il mercato va in quella direzione e soprattutto è una necessità oggettiva: o facciamo attenzione a preservare il territorio o tra poco non avremo più molto da vedere. Su quali tasti insiste, diciamo, questo questionario? È più una questione di energia o di che impatti, su che impatti andate a controllare, diciamo, la reale sostenibilità di queste aziende? Andiamo a verificarlo da tutti i punti di vista, quindi dai riduttori di flusso dei servizi igienici, dei rubinetti, alle politiche con cui viene gestita, per esempio l'irrigazione, l'utilizzo delle acque, l'acqua servita in blocca, in bottiglia, è suddiviso in più fasce, parte dalla sostenibilità fino ad arrivare a con che materiali sono fatti i muri e quanto fotovoltaico o quante energie alternative ha la struttura. È un'analisi a 360 gradi di tutti quei bullet point fondamentali per la gestione buona della struttura, adesso senza annoiare tutti, è anche fatto in maniera tecnica piuttosto avanzato come questionario. La struttura quando entra dice se ha la ristorazione, dice se ha il giardino, comunica una serie di servizi e poi si troverà un questionario settato sulla reale configurazione dell'azienda. Questo ha consentito a tantissime aziende quantomeno di fare il questionario per capire dove sbagliano, perché magari non sanno che è meglio servire l'acqua in brocca che con le bottiglie di vetro. E lì scoprono il perché, o non hanno ben chiaro, molto spesso succede, il tema del riciclo. Siccome nella struttura non arriva una raccolta differenziata, molte strutture non fanno la differenziata, ignorando il fatto che se il comune ha dei cassonetti di recupero differenziati centralizzati, sei obbligato a farla tu e andare tu a portarla. Senti, un'ultima considerazione può essere che mi auguro che consigliate anche di non esagerare, diciamo, quei prezzi, perché questo possa diventare un turismo per tutti e non solo elitario, no? Perché è un'occasione poi per vedere come le cose possono girare in maniera sostenibile in un'azienda, eccetera, eccetera. Per stimolare questo tipo di meccanismo lavoriamo molto sulla formazione relativa alla disintermediazione e li mettiamo in grado, come abbiamo fatto noi con il nostro sito, di autopromuovere la propria attività spendendo meno soldi possibili in banner e meno soldi possibili in intermediazione. L'intermediazione noi non la facciamo, quindi tutte le segnalazioni che di richiesta prenotazione che arrivano vanno direttamente alla struttura, la struttura se le gestisce in autonomia, a noi non comunica nulla, li rendiamo in grado di evitare di dover spendere provvigioni enormi con provider che li raccontano e li fanno vendere, investendo per esempio in comunicazione, migliorando quella e ottenendo poi un risparmio coerente che ti permetta di abbassare i prezzi delle stanze, perché se il 30% lo dai a chi ti intermedia la vacanza, fisiologicamente la stanza la devi far pagare di più. Molto bene, grazie davvero per questo collegamento. Mauro Lattuada di Più Turismo ricorda agli ascoltatori buon lavoro e a risentirci. Grazie a voi, a risentirci e a presto a Bergamo. Infine sentiamo anche altri attori di questo salone internazionale. Pietro Segalini è il presidente di Unpli Lombardia, l'ente che riunisce le Proloco lombarde in questo caso, ma le Proloco sono presenti a Bergamo con altre 15 regioni italiane, quindi diamo il benvenuto anche a Pietro Segalini. Buongiorno. Allora, io le chiedo intanto la vostra presenza, che cosa fate, che cosa portate, quanti sarete lì, perché insomma siete... una bella rappresentanza, mi sembra di aver letto. Sì, saremo una bella rappresentanza quest'anno. Al di là delle Proloco della Lombardia, saranno presenti anche 16 comitati regionali d'Italia. Perciò su questa piazza, Piazza Italia, l'abbiamo chiamata, vorremmo portare un po' le tradizioni che le Proloco fanno sui loro propri territori e la degustazione anche dei prodotti tipici che durante le nostre sagre noi proponiamo a tutta Italia intera. Per questo, sì, Sapori d'Italia la piazza, ecco, ci sarà intitolata così, Sapori d'Italia. Diciamo, quindi sarà principalmente un taglio enogastronomico. Enogastronomico, ma anche la promozione del proprio territorio. Ci saranno dei pian da poter distribuire, ogni territorio avrà la sua depiantistica da poter dare alla gente, a tutti i visitatori che invitiamo a venire alla fiera, perché è una bellissima fiera, è un turismo lento, diciamo, quello che noi delle Proloco proponiamo ai nostri territori. Un turismo lento che in questo periodo vedo cresce abbastanza l'attenzione, insomma fa sempre un po' più richiamo. Se lei pensa, insomma, ai visitatori, sono più italiani o più stranieri quelli che arrivano fuori dai circuiti classici, no? Milano, Venezia, Firenze e così via, ma che si spingono un po' nel territorio? Ma diciamo che stiamo riscontrando anche tanti turisti stranieri che amano proprio questo turismo. Un turismo alla scoperta, di conoscere proprio i posti, questo è interessante per noi delle Proloco. È un turismo che va a piedi, in bici, come arrivano? A piedi, in bici, ma anche si spostano anche direttamente, perché noi proponiamo anche magari visite guidate, gruppi, una volta arrivati a noi poi li sappiamo guidare un po' sul territorio, eccoci. Con l'ultima questione volevo chiedere l'aspetto di rispetto del territorio, sostenibilità, è una cosa che anche la Lombardia diciamo sente realmente o è un sondaggio? No, veramente no, la gente ci chiede questo, ci chiede la particolarità, chi viene chiede la particolarità e noi ci teniamo a far conoscere perché, vede, al di fuori delle agenzie di viaggio che sono collegate in tutto il mondo, noi viviamo il territorio e chi meglio di noi, chi meglio dei soci della Proloco possono illustrare un territorio, perché è gente appassionata che vive per il proprio territorio, noi puntiamo su questo. Bene, la ringrazio molto, allora in bocca al lupo per questa partecipazione, mi dica, prego. E tutti alla Fiera di Bergamo, invito tutti a venire alla Fiera di Bergamo così ci conosciamo. Bene, va bene. E veniamo tutti ad assaggiare, tra l'altro. Senz'altro. Avremo delle specialità, proprio in occasione, come Proloco della Lombardia, ecco, ci tengo a sottolineare, presenteremo un progetto che stiamo allestendo per un volume per i prodotti tipici delle quattro province della Lombardia orientale, Bergamo, Brescia, Bergamo e Cremona. Domenica mattina. Ma ha detto due volte Bergamo. Bergamo, Brescia, Cremona e... Mantova. Ok. Mi scusi, ma... Abbiamo capito che dobbiamo venire a Bergamo. Deve venire per forza. Ma anche tutti gli ascoltatori della vostra radio. Grazie. Grazie saluto, davvero. Buona giornata. Buona giornata. Allora, ci fermiamo qui per questa puntata. È tutto. Ci ritroviamo la prossima settimana alla stessa ora da Laura Bettini. Un buon ascolto.